Insomma, per questo genere di situazioni. Ma per esempio quanto ne dà al mese? Oh, circa 10.000 nuovi franchi al mese, un milione di vecchi. Cioè, 2 milioni di lire, con quale criterio lo distribuisce? Ma spesso anche di più. Il criterio? Oh, quello dell'SOS, della disperazione. Quando lei aveva 10 anni o 18, pensava come sarebbero stati i suoi 50 anni? No, mi dicevo, mio Dio, 50 anni, siete terribilmente vecchi. Invece adesso trovo che le donne cinquantenni sono davvero formidabili. E sono tutte come lei a 50 anni? Dalle lettere che ricevo direi di sì. Trovo che sono veramente in gamba quelle donne. Ma lei quanto vorrebbe vivere? Vivrò il tempo che Dio mi accorderà di vivere per fare ciò che devo fare. E le piacerebbe che questo tempo fosse eterno? No. Credo che sia davvero molto faticoso. Credo che l'eternità, poiché in ogni modo non esiste, occorre saperla non volere, ma credo che sia comunque molto faticosa da accettare. Penso che sia bene, quando si arriva a una certa età, riposarsi Brigitte, per l'eternità. Brigitte Bardot, un'ultima domanda. Le piace la sua vita adesso? Ma ci sono dei momenti in cui sono distrutta. Ma c'erano dei momenti di stanchezza in cui ero sposata anche quando avevo 20 anni. Io non sono stanca della vita, benché la trovi sempre più spaventosa, veramente. Ma la mia vita mi piace, se vuole. Trovo che ho uno scopo fantastico. Trovo che la mia vita serva a qualcosa di formidabile. E se mai riuscissi a arrivare a qualcosa, nei 50 anni che mi restano da vivere, io sarei davvero felice. Mix 24, la storia. Nome. Non pervenuto. Nome? Diabolico. Identità? Essere umano. Data di nascita? 1 novembre 1962. Età apparente? Sui 30-35. 35-40 anni. Professione? Ladro e assassino. Residenza? Clerville. Base delle operazioni? Tutto il mondo. Punti di forza? Bellezza e intelligenza. Punti di debolezza? Mancanza di ironia. Eva Kant. È un classico musone. Legami sentimentali? Eva Kant. Nemici? Ginko. Parenti? Sconosciuti. Amici? Quei pochi aveva non ci sono più. Segni particolari? Genio. Mago del travestimento e genio della fuga. Avevano capito che era il momento di creare un eroe del genere, un eroe cattivo. Ammazza senza nessun problema. Ruba sempre a persone che sembra che si meritino di perdere la ricchezza che hanno. Per quanto male faccia, ha però una dimensione quasi divina. Il re del terrore, il genio del crimine, il mago del travestimento è Diabolique, il popolarissimo ladro in calzamaglia nera che dal 62 a oggi ha conquistato con i suoi fumetti milioni di lettori. Un eroe negativo che fa piazza pulita di tutte le convenzioni del fumetto per ragazzi. Un eroe per adulti che rapina, uccide, dispone delle tecnologie più avanzate, dei trucchi più sofisticati, come le maschere che gli consentono di cambiare volto. La sua Jaguar nera su cui scappare a tutta velocità. È il fumetto che ha rivoluzionato l'editoria popolare in Italia. E a inventarlo sono due sorelle della ricca borghesia milanese, Angela e Luciana Giussani. Oggi a Mix 24 raccontiamo la loro storia, due ragazze intraprendenti che dal nulla creano un antieroe dei nostri tempi, un eroe rivoluzionario, come ci racconta il fan Andrea Gatti. In un grande centro commerciale romano, nessuno sembra preoccupato per la presenza di uno dei più grandi ladri italiani. Diaboliche, possiamo dire, è colui che ha cambiato il modo di essere il fumetto, è il primo fumetto che si è rivolta agli adulti. Chi sei e cosa farai di me? Signore e signori, Diabolique. Il